No. Sì, voglio vederla. Ed una stanza in un'altra trovò una scaletta e su a tastone andò alla camera della vecchia e picchiò all'uscio con un calcio. Chi è? Apri. A quella voce la vecchia fece tre salti e subito si sentì scorrere il paletto negli anelli e l'uscio si spalancò. Paolo Poli ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.